falsi sospiri di becchini, suonatori d'organino, di orchestre dicono che dovrei lasciarti. Campane, fesse, trombe d'auto sghignazzano in faccia a me, è giusto sei, se ti perdo. Ti voglio, con me, quanto ti voglio. Politicanti alcolizzati schivano gli occhi di affamati, e un redentore da due soldi ti aspetta. Ti aspetto, ti allontanerà l'amaro calice da me, e mi dirà di aprir la porta a te. Ti voglio, ti voglio con me, quanto ti voglio. I padri non ci sono più, il vero amore è sotterrato, e figli han disdegnato me perché non vi ho pensato. Ritorno al solito motel, la cameriera è sempre là ed è gentile come sempre con me. Lei vede tutto e sa già che io vorrei essere con te, ma non dice niente, lei sa che. Ti voglio, ti voglio con me, quanto ti voglio. Il tuo bamboccio l'ho incontrato, ancora un po' e l'avrei strozzato, non sono stato furbo, lo sai. Campane, fesse, trombe d'auto sghignazzano in faccia a me, è ingiusto, sai, se ti perdo. Ti voglio, ti voglio con me, quanto ti voglio.